Capitolo 109. Pelope e Denomao. Pelope ereditò il trono di Paflagonia da suo padre Tantalo e per un certo tempo risiedette a Enete, sulle sponde del Mar Nero. Di lì governò sui Lidi e sui Frigi, ma i barbari lo cacciarono dalla Paflagonia ed egli allora si ritirò sul monte Sipilo in Lidia, sua patria ancestrale. Ilo, re di Troia, non gli permise di vivere in pace nemmeno lì, ma gli ordinò di andarsene e Pelope trasportò i suoi favolosi tesori al di là del mare Egeo. Aveva deciso di stabilirsi in una nuova sede con la immensa schiera dei suoi seguaci, ma prima volle chiedere la mano di Ippodamia, figlia del re Enomao d'Arcadia, il quale regnava su Pisa e sull'Elide. Alcuni dicono che Enomao fosse stato generato da Ares in Arpina, figlia del dio fiume Asopo, oppure nella Pleiade Asteria, oppure in Asterope, oppure in Euritoe, figlia di Danao, altri invece lo dicono figlio di Alsione o di Iperoco. Da sua moglie Sterope o Evarete, figlia di Acrisio, Enomao ebbe tre figli, Leucippo, Ippodamo e Dispontito, fondatore di Disponzio, e una figlia, Ippodamia. Enomao era famoso per la sua passione per i cavalli, proibì ai suoi sudditi, pena l'esilio, di accoppiare le giumente con gli asini. Se gli abitanti dell'Elide volevano dei muli, dovevano portare in altro paese le loro giumente per farle coprire. Non si sa con certezza se Enomao fosse stato avvertito da un oracolo che il suo genero l'avrebbe ucciso, oppure se egli si innamorò di Ippodamia. In ogni caso, escogitò uno strano mezzo per impedire a Ippodamia di sposarsi. Sfidava infatti ciascun pretendente a misurarsi con lui in una corsa di cocchi che si svolgeva su un lungo e difficile percorso tra Pisa, che sorge sulle rive del fiume Alfeo, di fronte a Olimpia, fino all'altare di Posidone sull'istmo di Corinto. Alcuni dicono che i cocchi erano trainati da due cavalli, altri da quattro. Enomao esigeva che Ippodamia salisse sul cocchio del pretendente per distrarre la sua attenzione, ma gli concedeva un vantaggio di mezz'ora mentre egli stesso sacrificava un ariete sull'altare di Zeus guerriero a Olimpia. Ambedue i cocchi si sarebbero poi lanciati verso l'istmo e il pretendente, se sorpassato da Enomao, doveva morire. Se invece avesse vinto, Ippodamia sarebbe stata sua ed Enomao sarebbe morto. Tuttavia, poiché le cavalle nate dal vento Psilla e Arpina, che Enomao aveva avuto in dono dal padre suo Ares, erano di gran lunga le migliori di tutta la Grecia, più veloci dello stesso vento del nord, e poiché il suo cocchio, abilmente guidato da Mirtilo, era costruito apposta per le gare, Enomao non mancò mai di superare il suo rivale e di trafiggerlo poi con la sua lancia, un altro dono di Ares. In tal modo Enomao eliminò 12 o taluni dicono 13 principi, inchiodò le loro teste e le loro membra alle porte del palazzo, mentre i tronchi venivano barbaramente gettati l'uno sull'altro. Quando uccise Marmace, il primo pretendente, ne sgozzò anche le cavalle Partenia ed Erifa e le seppellì presso il fiume Partenio, dove ancora si vede la loro tomba. Taluni dicono che il secondo pretendente, Alcato, fu inumato presso il Tarassippo nell'ippodromo di Olimpia e che la sua ombra irata ostacola a volte la corsa dei cocchi. Mirtilo, l'auriga di Enomao, era figlio di Ermete e di Teobule o Cleobule, oppure della Danaide Fetusa. Altri dicono che era figlio di Zeus e di Climene. Anch'egli si innamorò di Ippodamia, ma non osò partecipare alla gara. Frattanto gli Olimpi avevano deciso di intervenire per por fine a quella strage, tanto più che Enomao proclamava vantandosi che egli avrebbe costruito ben presto un tempio di crani umani come Eveno, Diomede e Anteo avevano già fatto prima di lui. E quando Pelope, approdando nell'Elide, supplicò il suo amante Posidone, che egli aveva invocato con un sacrificio sulla spiaggia, di donargli il più rapido cocchio del mondo perché potesse chiedere la mano di Ippodamia, oppure di deviare il corso della bronzea lancia di Enomao al momento fatale, Posidone fu ben felice di aiutarlo. Tosto Pelope si trovò in possesso di un cocchio d'oro che poteva correre sul mare senza che si bagnassero i mozzi delle ruote ed era trainato da una coppia di instancabili, alati e immortali cavalli. Recatosi sul monte Sipilo e offerto ad Afrodite Temnia, un simulacro fatto con legno di mirto, Pelope collaudò il suo cocchio guidandolo sopra i flutti del mare Egeo. Ebbe appena il tempo di guardarsi attorno e già aveva raggiunto Lesbo, dove il suo auriga Cillo, Cella o Cilla morì per la troppa velocità di quella corsa. Pelope trascorse la notte a Lesbo e vide in sogno l'ombra di Cillo che piangeva la sua triste sorte e implorava gli onori dovuti a un eroe. All'alba Pelope ne bruciò il corpo, innalzò un tumulo sopra le sue ceneri e fondò lì accanto il santuario di Apollo di Cilleno, poi ripartì guidando personalmente il cocchio. Appena giunto a Pisa, Pelope si sgomentò alla vista della fila di teste inchiodate alle porte del palazzo e cominciò a rimpiangere la propria audacia. Promise allora a Mirtilo, se acconsentiva a tradire il suo padrone, metà del regno e il diritto di trascorrere la prima notte di nozze con Ippodamia. Prima di iniziare la gara, la scena scolpita sul frontone del tempio di Zeus a Olimpia, Pelope sacrificò ad Atene Cidonia. Alcuni dicono che l'ombra di Cillo apparve accanto a Pelope e lo aiutò a guidare il cocchio, altri che Sfero fu il suo auriga, ma generalmente si suppone che egli guidò da solo con Ippodamia al fianco. Ippodamia frattanto si era innamorata di Pelope e, lungi dall'ostacolarne la corsa, promise di ricompensare generosamente Mirtilo se con qualche mezzo fosse riuscito a mettere in scacco suo padre. Mirtilo allora rimosse i chiodi dai mozzi delle ruote di Enomao e li sostituì con altri fatti di cera. Quando i cocchi raggiunsero l'estremità dell'istmo ed Enomao, lanciato all'inseguimento, afferrò la lancia, preparandosi a colpire Pelope alla schiena, le ruote si staccarono dal suo carro ed egli morì travolto dai suoi stessi cavalli. La sua ombra ancora vaga attorno al Tarassippo a Olimpia. Taluni tuttavia sostengono che la velocità degli alati cavalli di Posidone permise a Pelope di distanziare facilmente Enomao e di giungere primo all'istmo, al che Enomao o si uccise per la disperazione o fu ucciso da Pelope alla meta. Secondo altri, la gara si svolse nell'ippodromo di Olimpia e Anfione diede a Pelope un talismano che egli seppellì presso il Tarassippo, di modo che la pariglia di Enomao si impennò e sfasciò il cocchio. Ma tutti affermano concordi che Enomao, prima di morire, lanciò una maledizione contro Mirtilo, pregando gli dei che lo facessero perire per mano di Pelope. Pelope, Ippodamia e Mirtilo si prepararono per un viaggio serotino sul mare. Ahimè, si lagnò Ippodamia, non ho bevuto nulla in tutto il giorno e la sete mi tormenta. Il sole stava tramontando e Pelope si fermò sulla deserta isola di Elena, poco lungi dall'Eubea, e risalì verso l'interno in cerca d'acqua. Quando ritornò con l'elmo colmo, Ippodamia corse piangendo verso di lui e gli disse che Mirtilo aveva tentato di farle violenza. Pelope aspramente rimproverò Mirtilo e lo colpì al viso, a che l'auriga protestò indignato. «Questa è la notte nuziale, e tu giurasti che avrei goduto di Ippodamia. Vuoi forse infrangere il tuo giuramento?» Pelope non replicò, ma tolse le redini dalle mani di Mirtilo e spinse il cocchio sul mare. Nei pressi di Capo Geresto, il promontorio più meridionale dell'Eubea, ora coronato da uno splendido tempio di Posidone, Pelope sferrò a Mirtilo un calcio improvviso che lo fece precipitare a capofitto nel mare. E Mirtilo, mentre cadeva, lanciò una maledizione contro Pelope e tutto il suo casato. Ermete fece splendere l'immagine di Mirtilo in cielo come costellazione dell'auriga, ma il suo cadavere fu spinto dalle onde sulle spiagge dell'Eubea e sepolto in Arcadia, a Feneo, accanto al tempio di Ermete. Una volta all'anno gli vengono offerti sacrifici eroici. Il mare Mirtoo, che si estende dall'Eubea fino all'Egeo, pare sia stato così chiamato da Mirtilo e non dalla ninfa Mirto, come pretendono gli Eubei. Pelope proseguì il suo viaggio, finché raggiunse la parte occidentale dell'oceano, dove fu purificato da Efesto. In seguito ritornò a Pisa e successe sul trono a Enomao. Ben presto conquistò quasi tutta la regione, allora nota come Apia o Pelasgiotide, e la chiamò Peloponneso, che significa isola di Pelope, dal proprio nome. Il suo coraggio, la sua saggezza, la sua ricchezza e i suoi molti figli fecero di lui l'uomo più invidiato e venerato dell'intera Grecia. Pelope strappò Olimpia al re Epeo e la aggregò al regno di Pisa, ma non riuscendo a sconfiggere il re Stinfalo di Arcadia con le armi, lo invitò a un'amichevole discussione, poi lo tagliò a pezzi e sparse le sue membra per ogni dove. Questo delitto fece scoppiare la carestia in Grecia, ma la solenne celebrazione dei giochi olimpici indetta da Pelope una generazione all'incirca dopo quelli di Endimione, fu più splendida di tutte le precedenti. Per fare ammenda dell'assassinio di Mirtilo, che era figlio di Ermete, Pelope innalzò il primo tempio a questo dio nel Peloponneso. Cercò inoltre di placare l'ombra di Mirtilo costruendo il suo cenotafio nell'ippodromo di Olimpia e tributandogli onori eroici. Taluni dicono che né l'ombra di Enomao né quella dell'irato Alcato né l'oggetto magico sepolto da Pelope è il vero Tarassippo, bensì l'ombra di Mirtilo. Sopra la tomba degli sventurati pretendenti di Ippodamia, sulla riva opposta del fiume Alfeo, Pelope innalzò un tumulo e tributò onori eroici anche a loro. A circa uno stadio di distanza sorge il santuario di Artemide e Cordace, così chiamata perché i sudditi di Pelope colà celebravano le sue vittorie danzando la danza della corda che essi avevano importato dalla Lidia. Il santuario di Pelope, dove le sue ossa sono conservate in un cofano di bronzo, fu consacrato da Eracle Tirinzio, suo nipote, quando venne per partecipare ai giochi olimpici. E i magistrati dell'Elide ancora oggi offrono in sacrificio a Pelope ogni anno un ariete nero arrostito su un fuoco di legna di bianco pioppo. Coloro che si sono cibati delle carni della vittima debbono purificarsi con un bagno prima di entrare nel tempio di Zeus. Nel santuario si affollano ogni anno i visitatori quando i giovanotti si flagellano dinanzi all'altare di Pelope, libando a lui col proprio sangue. Il cocchio donato da Posidone è esposto sul tetto dell'anattorio nel territorio di Fliunte. I sicioni conservano nel loro tesoro a Olimpia la spada di Pelope dall'impugnatura d'oro. E il suo scettro a forma di lancia, a Chironea, è forse l'unica autentica opera di Efesto ancora esistente. Zeus lo invitò a Pelope a mezzo di Ermete e Pelope lo trasmise poi al re Atreo. Pelope viene anche chiamato Cronio oppure domatore di cavalli e gli Achei lo rivendicano come loro antenato. Secondo Pausania e Apollodoro, Tantalo non lasciò mai l'Asia Minore, ma altri mitografi parlano di lui e di Pelope come di re indigeni della Grecia. Ciò lascia supporre che i loro nomi fossero titoli dinastici importati dai primi coloni greci in Asia Minore, dove il loro culto è attestato da santuari eroici che gli emigrati diffusero di nuovo in Grecia prima dell'invasione achea nel Peloponneso nel XIII secolo a.C. Da antiche iscrizioni ittite sappiamo che i re ellenici regnarono in Panfilia e a Lesbo fin dal XIV secolo a.C. Pare che i Pelopotantalidi abbiano spodestato la dinastia cretizzata di Enomao dal trono del Peloponneso. Il cavallo, animale già sacro nella Grecia pelasgica molto prima che iniziasse il culto del carro del sole, era un pony di razza europea e dedicato alla luna, non al sole. I cavalli transcaspici, molto più grandi, giunsero in Egitto con gli invasori Ixos nel 1850 a.C. I cocchi trainati da cavalli sostituirono i cocchi trainati da asini nell'esercito egiziano verso il 1500 a.C. e a Creta prima della caduta di Cnosso un secolo dopo. Il fatto che Enomao mettesse al bando i muli va forse associato con la morte di Cillo. In Grecia, come a Roma, il culto degli asini fu soppresso quando il carro solare divenne simbolo della regalità. Una riforma religiosa analoga ebbe luogo a Gerusalemme, dove ai tempi di Flavio Giuseppe era ancor viva la tradizione di un antico culto degli asini. Elio del carro solare, una divinità achea, fu identificato in diverse città con Zeus solare o Posidone solare, mentre l'asino divenne l'animale sacro a Crono che Zeus e Posidone avevano detronizzato o a Pan, a Sileno e ad altre antiche divinità pelasgiche. Vi era poi Apollo solare. Il suo odio per gli asini è citato da Pindaro ed è dunque probabile che all'Apollo cileno gli iperborei offrissero ecatombi di asini. Enomao, che rappresenta Zeus come incarnazione del sole, è perciò chiamato figlio di Asteria, che governa il cielo, anziché di una Pleiade dall'identico nome. E la regina Ippodamia, che egli sposò diventando re, rappresenta Era come incarnazione della luna. Nel Peloponneso fu rispettata la successione matrilineare che aveva tutto il favore della classe rurale. Né il regno del re poteva prolungarsi oltre il grande anno di 100 mesi, nell'ultimo dei quali il calendario solare e quello lunare coincidevano. Allora egli era destinato a morire travolto dai cavalli, come ulteriore concessione al culto ancor più antico di Pisa, dove il rappresentante di Zeus veniva ucciso ogni anno a mezza estate dal suo successore, Enomao acconsentì a morire di una finta morte nel corso di 7 estati successive, e ogni volta nominò un sostituto che per 24 ore avrebbe preso il suo posto salendo sul cocchio accanto alla regina. Al termine di quel giorno il sostituto veniva ucciso e il suo cocchio infranto, mentre il re usciva dalla tomba dove era rimasto nascosto per riassumere il potere. Questo spiega il mito di Enomao e dei pretendenti. Un'altra versione dello stesso mito è quella di Eveno. I mitografi si sono senza dubbio sbagliati quando parlano di 12 o 13 pretendenti. Quei numeri si riferiscono alle lunazioni, alternativamente 12 o 13, dell'anno solare. Per la stessa ragione, durante le gare a Olimpia, i cocchi percorrevano 12 volte lo stadio in onore della dea della luna. Pelope è l'ottavo principe, il più fortunato, che uscì incolume dai rottami del carro e riuscì a spacciare il vecchio re con un colpo della sua lancia a scettro. Questa gara dall'esito mortale si svolgeva ogni anno nell'ippodromo. Il sostituto poteva guidare i propri cavalli che, stando al mito di Glauco, pare fossero eccitati con delle droghe, e lungo la dirittura tutto si svolgeva normalmente. Ma là dove la pista si curvava all'altezza di una bianca statua detta Marmaranace, re di marmo, o anche Tarassippo, spaventa cavalli, la ruota esterna si staccava per mancanza di un chiodo nel mozzo, il carro si sfasciava e i cavalli trascinavano il sostituto del re solare fino alla morte. Il mirto era l'albero della morte, quello del 13° mese, al cui termine si svolgeva la gara. Di conseguenza si dice che Mirtilo abbia rimosso i chiodi di metallo dai mozzi delle ruote, sostituendoli con altri di cera. La cera che si scioglie provocò la morte di Icaro, un altro sostituto del re solare, e lanciando poi una maledizione contro i Pelopidi. Nella seconda parte del mito Mirtilo è stato confuso con il sostituto. Come in Terrex, il sostituto aveva il diritto di salire sul cocchio solare accanto alla regina e di giacere con lei durante l'unica notte del suo regno. Ma all'alba del dì seguente il vecchio re lo uccideva e, metaforicamente, continuava la sua corsa fino all'estremo ovest, dove si purificava nelle onde dell'oceano. Nella leggenda di Mirtilo che cade in mare dal cocchio si fondono miti diversi. Poche miglia a est dell'ippodromo, dove si svolgevano i giochi istmici istituiti in onore del sostituto Melicerte, costui veniva gettato in mare dall'alto di un promontorio e una cerimonia identica aveva probabilmente luogo a Geresto, dove Mirtilo morì. La presenza di Tarassippo viene segnalata in varie località tra Tebe e Iolco, e questo ci fa supporre che anche là si svolgessero gare mortali negli ippodromi. Ma poiché l'ippodromo di Olimpia, sacro a Zeus solare, e l'ippodromo istmico, sacro a Posidone solare, sono ambedue associati alla leggenda di Pelope, i mitografi ci parlano della gara come di un cross country che si svolgeva tra le due località. Nella leggenda si cita anche Lesbo, forse perché Enomao era un titolo dinastico lesbico. L'introduzione di Anfione in questo mito, benché fosse un tebano, si può spiegare col fatto che egli era anche nativo di Sicione sull'Istmo. Mirto fu probabilmente un appellativo della dea del mare, vista come distruggitrice. La radice mi sta per mare, come in Mirtea, che significa appunto dea del mare. Mirtoessa, una forma ampliata di Mirto, era uno degli appellativi di Afrodite. Può darsi che Mirtilo significasse in origine fallo del mare, Mir Tilos. Pelope taglia a pezzi Stinfalo, e la stessa cosa si dice Tantalo abbia fatto con Pelope. Questa antichissima forma di sacrificio reale era quasi certamente praticata in Arcadia. Pare infatti che i Pelopidi avessero patrocinato molti culti locali, oltre a quello del carro solare, e in special modo l'arcadico culto pastorale della quercia e dell'ariete, come ci viene confermato dal rapporto di Pelope con Tantalo e dal suo sacrificio di un ariete nero a Olimpia. Il culto della pernice a Creta, a Troia in Palestina, che ci viene confermato dalla danza Cordax. Il culto del titano, confermato dall'appellativo Cronio, attribuito a Pelope. Il culto del pesce porco e il culto del dio Asino, in quanto l'ombra di Cillo aiutò Pelope a vincere la gara. La macellazione delle giumente di Marmace va forse messa in rapporto con la cerimonia dell'incoronazione di Enomao, che implicava il sacrificio di giumente. Una mela cidonia o cotogna si trovava nella mano della dea della morte ad Atene. A lei Pelope sacrificò per poter entrare nei campi Elisi. E il pioppo bianco, usato nei rituali eroici a Olimpia, simboleggiava la speranza nella reincarnazione, perché a coloro che entravano nei campi Elisi era garantito il privilegio della rinascita. Esiste uno stretto rapporto tra il sacrificio cruento dinanzi all'altare olimpico di Pelope e l'autoflagellazione dei giovani spartani devoti ad Artemide Eretta. Pelope era insomma una vittima e soffrì in onore della dea Ippodamia.